Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera a quanti ci ascoltano. Questa sera parliamo di infrastrutture, di porti, di aeroporti, di strade, di ferrovia e lo facciamo con Beniamino Pagliaro. Buonasera Pagliaro. Buonasera. Grazie. Beniamino Pagliaro, giornalista, autore del libro Senza rete, infrastrutture in Italia, cronache del cambiamento, editore Guerini e Associati, è un libro che racconta quanto è avvenuto negli ultimi anni in Italia sul fronte delle infrastrutture, come è cambiata la politica delle infrastrutture, poi ci dirà se c'è stata una politica delle infrastrutture, quali sono i problemi ancora aperti. Ecco, è un libro, Beniamino Pagliaro, che nasce da un interesse specifico. Pagliaro è nato a Trieste, vive ancora a Trieste, mi sembra. Vivo ancora a Trieste, poi almeno un giorno alla settimana tra Roma e Milano è diventato necessario, però Trieste è ancora la base. Quindi Trieste è un grande centro potenziale logistico, un grande porto, un collegamento con l'est dell'Europa e poi appunto, come ci diceva Pagliaro, tocca con mano ogni settimana come sono organizzati i trasporti in Italia. Giornalista, scrive di economia e politica, lavora per l'agenzia ANSA e in questo libro appunto raccoglie le impressioni sul sistema infrastrutturale italiano. Molto brevemente, che giudizio dare del sistema delle infrastrutture in Italia, Pagliaro? Ma è un giudizio chiaroscuro, ci sono grandi eccellenze che funzionano, pensiamo all'alta velocità e quando parliamo di alta velocità intendiamo quella che funziona e che già esiste, invece quando pensiamo a quella cattiva che deve fare male alle montagne invece usiamo sempre l'acronimo TAV, no? Ma allo stesso tempo, per esempio, sempre per stare nel campo ferroviario, abbiamo la gestione dei treni locali che è sempre più delegata alle regioni, che hanno sempre meno risorse perché lo Stato accentra quel poco che può accentrare, e quindi abbiamo una differenza dalla Champions League dell'alta velocità, che ormai funziona e funziona anche abbastanza bene, ed è anche dà anche margini alle società che operano, tant'è che è arrivato anche un operatore privato, grande novità per il panorama italiano. Ha invece la serie B o la serie C o Lega Pro, come si chiama oggi, dei pendolari che devono faticare per arrivare al lavoro, a casa ogni giorno. Insomma, quindi questo il libro è un racconto che va per settori, cercando di fare un po' d'ordine senza obiettivi enciclopedici, ma raccontando un po' l'evoluzione degli ultimi anni. Quindi passando dalle ferrovie ai porti, per esempio, abbiamo una situazione eccessivamente frammentata, figlia della storia d'Italia e anche forse del fatto che l'Italia è una nazione da poco tempo rispetto, certo, ad altri competitori nazionali. Il risultato sono 24 autorità portuali, ma soprattutto una politica che non riesce a indirizzare. C'è da essere un po' cinici e ammettere che in ogni paese del mondo le infrastrutture e le reti pubbliche e le reti di trasporto sono pubbliche, quindi inutile, certo, c'è un ruolo importante e determinante del privato, e questo c'è anche in Italia per fortuna, però la guida è pubblica, e quindi quando la guida teme di non accorpare due autorità portuali oppure di decidere di puntare tutto a est o tutto a ovest, certo, i risultati poi si vedono, insomma. E infatti nel libro si racconta come molte delle navi che passano dal canale di Suez, che arrivano dall'Oriente, dall'Estremo Oriente, non si dirigono sui porti italiani, come sarebbe naturale, ma attraversano lo stretto di Gibilterra e si dirigono al porto di Rotterdam, che è il vero centro logistico europeo. Perché l'Italia ha perso questa sfida con i porti del nord, dove sarebbe i porti italiani sarebbero per loro natura la destinazione delle linee con le marittime con l'Oriente? La differenza è in numeri, mentre se la guardiamo dal punto di vista delle miglia, per usare un'unità marittima, il porto di Genova sarebbe, che è considerato insomma il principale porto, sì, italiano, assieme a Trieste appunto, è sicuramente più vicino ai porti a Suez, quindi poi a tutto lo sbocco verso l'Oriente, di porti del nord come Rotterdam, la differenza poi la fanno non tanto la navigazione, che quindi favorirebbe i nostri porti, bensì i giorni che un container impiega a uscire dal porto. Quindi paradossalmente in pochi giorni, circa 5 giorni in meno, un container arriva a Genova, però poi per uscire, tra pratiche doganali e altre amenità burocratiche, impiega fino a 5 giorni per uscire dal porto. Ogni tanto la pratica è veloce e va bene e succede anche in un giorno, ma il problema che hanno i grandi operatori della logistica, che ho anche un po' intervistato, tra cui il primo operatore globale che è Maersk, che punta comunque sull'Italia, è l'incertezza. Cioè non è il problema di sapere, vabbè, sono 3 giorni, mi organizzo su 3 giorni. Il problema è non sapere se sarà uno, se saranno 3, se saranno 5. Quindi il risultato è che si va a Rotterdam, perché a Rotterdam scientificamente in 3 giorni il container esce. In quei 3 giorni si è recuperato, e nella certezza soprattutto, si è recuperato il gap. Certo. Il gap e quindi un container che deve andare a Milano paradossalmente oggi spesso passa per Rotterdam, poi arriva fino a Rotterdam, si prende un treno per 1000 chilometri, che insomma non è proprio intelligente. Sì, sì, sembra assurdo, sembra un paradosso, però la realtà è questa, e quindi le ragioni di fondo sono ragioni reali, perché poi gli operatori fanno i conti con il loro business e quindi devono fare veramente... Ormai l'approccio che hanno gli operatori è chirurgico, non si sbaglia, cioè viene tutto programmato in maniera scientifica, ci sono software che aiutano chiaramente le compagnie a fare questo, ma mi raccontava l'amministratore delegato di Maersk Italia, Orazio Stella, che mentre una volta, insomma, anche se un container viaggiava a vuoto al ritorno da una nave all'altra, da un porto all'altro, era abbastanza uguale, oppure un container poteva sbarcare a Livorno piuttosto che a Genova e poi ci si organizzava. Adesso non esiste questa cosa, perché ogni viaggio deve essere contato e numerato per dare poi un margine. Quindi la logica è preparare le cose. Non si, ecco, quello che forse da tante persone con cui ho parlato emerge è che non è più un gioco, va tutto programmato e se non ci pensi prima è troppo tardi, insomma. Ecco, forse la mancanza di programmazione è una delle caratteristiche italiane. Abbiamo parlato dei porti, possiamo parlare anche degli aeroporti. Indubbiamente i dibattiti che ci sono, che continuano su Malpensa, Linate, il sistema aeroportuale, dimostrano che l'Italia di scelte precise non le ha fatte. Altri paesi hanno fatto delle scelte molto più chiare, e infatti gli aeroporti italiani sono di serie B rispetto a quelli, agli altri aeroporti europei. Ecco, senza dubbio ci sono alcune realtà che a guardare i numeri sono ancora importanti, ovviamente l'hub di Milano, l'hub di Roma e quello di Venezia, che sono i 3 principali. Però passando appunto dai porti, che sono una materia oscura e nascosta, agli aeroporti, di cui nemmeno dei porti nemmeno si parla tutto sommato, gli aeroporti invece sono un luogo in cui tutti noi passiamo un paio di volte all'anno, e quindi almeno, come dicevi tu, il dibattito si fa, e quindi abbiamo dibattuto tutti su Linate, su Malpensa, sul trenino per Fiumicino, insomma sono cose che abbiamo toccato con mano. Il problema è che anche se ne parla di più, poi non si decide, perché siamo ancora a dibattere su Milano, Malpensa o Linate, siamo ancora a dibattere sui lavori di ristrutturazione di cui avrebbero bisogno le piste di Fiumicino, ma non si va avanti. C'è da dire che un ruolo centrale nello sviluppo strano del panorama aeroportuale italiano è dovuto anche all'Italia, perché certo. Mentre il resto del mondo, o meglio, dai, ragioniamo sull'Europa per intanto, mentre il resto d'Europa dall'87, e quindi sono 26 anni fa, non è proprio l'altro ieri, ha iniziato questa grande operazione di liberalizzazione, per cui tanto tempo fa c'era una volta la compagnia aerea che poteva fare solo determinati voli, e infatti i costi per l'utente erano altissimi. E poi con la liberalizzazione e poi ancora più tardi con l'entrata nel mercato delle compagnie low cost, questo è cambiato. In Italia, fino a poco tempo fa, l'Alitalia, quindi la compagnia di bandiera, è rimasta fermamente in mano pubblica e anche senza grandi idee su come farla crescere. Il risultato è quello che stiamo vedendo, insomma, con una partnership ancora da studiare, no? Con un operatore che tradizionalmente da noi non si era visto. Ecco, in questa prospettiva le scelte miopi, in fondo, uno studio sugli aeroporti milanesi parla proprio di scelte miopi da parte delle autorità, hanno cercato di privilegiare tanti interessi locali, ma si è perso di vista l'interesse generale e si è dato spazio, ma anche giustamente poi per i consumatori, alle compagnie low cost, che sono le uniche che sono cresciute nel mercato italiano. Sì, sì, l'Italia ormai ha una quota di mercato davvero bassa, intorno al 25%, certo. Mentre le compagnie low cost stanno crescendo, perché chiaramente dove c'è domanda si muove il mercato, e compagnie più agili come Ryanair oppure EasyJet si stanno muovendo. La verità è che se poi andiamo a guardare le altre compagnie nazionali, o almeno che furono nazionali d'Europa, tutte si sono organizzate anche con un brand low cost, no? Cioè la Lufthansa, Germanwings, Iberia, Vueling, cioè tutti capiscono che il mercato chiede due cose diverse: i grandi voli intercontinentali con la compagnia di bandiera e chiaramente con alleanze strategiche, certo. E i voli quotidiani low cost, perché alla fine il vantaggio, cioè la tecnica del volo e anche l'esperienza a bordo per un volo Trieste-Roma non è mica cambiata da 30 anni fa, insomma, certo. È sempre quella, e quindi l'utente si abitua a poter viaggiare low cost e così lo fa. Preferisce. Abbiamo parlato con Beniamino Pagliaro, giornalista dell'ANSA, del suo libro Senza Rete, Infrastrutture in Italia, Cronache del Cambiamento, edito da Guerini Associati. Sono 124 pagine per 20 euro per fare appunto un viaggio nelle infrastrutture, nei tanti problemi delle infrastrutture italiane. Grazie a Beniamino Pagliaro, grazie anche a Peter Bescapè in regia, Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie ancora, buona serata.